and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Allora sì. K, ti sei ripreso dopo Capodanno, ancora malandato nonostante le medicine. Le medicine aiutano, ma il dopo sbronza un po' permane, capito? È una cosa che resta un po' lì nebulosa. Diciamo che sei il solito bambino, K. Dai. Sei ancora affascinato dal romanticismo che c'è intorno agli ubriaconi. Ma certo, dai. Ma sì, se no non si spiegherebbe come mai indugi così tanto nei piaceri della bottiglia, Parli. A te piace proprio l'icona pop dell'uomo col dopo sbronza, ecco, c'è tutta una mitologia grafica, letteraria, musicale, proprio sull'artista romantico e ubriaco, no? È una mitologia che adesso è diventata di maniera. Il pop ha un po' il difetto, diciamo, di non fare troppo i conti con la cruda realtà. Guarda che non è un difetto, è un pregio. Sì, però vabbè, voglio dire, scusa, leggere Bukowski, che descrive le sbronze, i dopo sbronza, eccetera, è un conto. Vivere con Bukowski è un altro conto. Cioè, ci sono inconvenienti diversi, c'è gli inconvenienti. Cioè, vivere con lui in casa. Sì, avere Bukowski in casa è un po' diverso dalle descrizioni di Bukowski che fa della sua vita, insomma, perché il disordine, la sporcizia, l'igiene personale discutibile. È un disastro. Dal vivo le vedi e le senti, cioè leggendolo in un libro sono tutti capaci ad essere tolleranti con Bukowski. Sì, quindi... vabbè, però io non sono mica Bukowski. Poi Bukowski è morto. È morto. Sì, vabbè, è morto, si sa. Morto di dopo sbronza. Sì, esatto. Cioè, tu dicevi che non è una malattia, non funzionano le medicine. Il dopo sbronza è una malattia. Si prende le medicine. Mortale, si può dare. Quanti ne ha uccisi? Però voglio dire, dai, tu come quello che hai tu adesso, sei così. Sì, perché è bruttissimo, perché il dopo sbronza non è soltanto un malessere fisico, ma attiva anche un senso di colpa generico. Fortissimo senso di colpa generico. Ma come? Generico o fortissimo? No, fortissimo. Cioè, mi sembra, non so perché, ma sembra un po' in alternativa. No, ti senti, perché? Cioè, se tu sei tantissimo generico in colpa. È per tutto, per niente, è tutto. Per capito? Tutto, ho capito. Sì, mi sento semplicemente in colpa per essere io me. Sai cos'è quello? Il superio. Superio. Come il superino? Superio. La roba di Freud. Ma che Freud? È una specie di poliziotto psichico che abbiamo tutti e che ci tiene sotto controllo. Non è il superio, quando non interviene. È quando... il Fernet. Sì, il Fernet. Sigmund Fernet. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Words of advice for young people. Well, here are a few simple admonitions for young and old. Ma che lingua fai? Non si capisce niente. Beh, eccovi qualche semplice raccomandazione per giovani e vecchi. Ma come vecchi? Qui siamo bambini. In a boy and girl fight. Ma cosa dice? Non ficcate mai il naso in un litigio tra amanti. Amanti. Beware of whores who say they don't want money. State molto attenti a quelle puttane che vi dicono di non volere soldi. No, ma come parlacciometro? L'ha detta lui la parolaccia? More money, much more. Col cazzo che non ne vogliono. Ma ancora? Ne vogliono di più, ne vogliono. Molti di più. Ma non l'ho detta io! If you are doing business, ma che fregatura sti consigli! Sto vecchio biascica e io spendo i soldi. Se sei in affari con un bastardo religioso, metti tutto per iscritto. His word isn't worth shit. La sua parola non vale una merda secca. È direttamente il buon Dio a dirgli come fotterti sull'accordo. Raga, la seconda parolaccia! Words of advice for young people. Now some of you may encounter the devil's bargain. E questo continua. Magari qualcuno di voi si imbatterà in un patto col diavolo, no, se riesce ad arrivare fino a quel punto. No, il diavolo no, Any old soul is worth saving. Ma il diavolo era il diavolo del Milan. Every soul is e Milan ora buying. Sì. Qualsiasi vecchia anima è degna di essere salvata, almeno per i preti. Ma non tutte le anime sono degne di essere comprate. Beh, allora sono consigli di calcio mercato per il Milan. Adesso è il mercato di gennaio. Ma vuol dire che compriamo Messi, eh? E Messi è forte. Dai Messi, dai Milan, gol! Richest guy in some cemetery. Quindi potete prendere l'offerta come un complimento. Il diavolo ci prova prima con le cose più semplici, tipo i soldi. E i soldi? I soldi del mondo. E il Milan? Ma chi vuole diventare il più ricco del cimitero? No, magari più ricco del cimitero no, ma del Parlamento sì, eh. Not much left to spend it on, eh, Gramps? È presto vecchio. I soldi non servono, non ci sono molti modi per spenderli, vero nonnetti? Come? Siete troppo vecchi per certe cose. Ma chi è vecchio? Siamo bambini? Well, time hits the hardest blows, especially below the... Però i vecchi c'è una bella voce, eh? Beh, il tempo mena i colpi peggiori. Aia! Specialmente sotto la cintura. No, aia, sotto la cintura! Ma il parolaccione tra le testa anche le bastonate? No, eh? Prego, questa me la paghi, eh? Come mai vi attirano i corpi giovani? Uè. I frutti ancora da cogliere, il vedo non vedo. Ma cosa che guardi? Questo atteggiamento ambiguo. Drago! In order to feel something, you have to be there. Non è che avete dimenticato un dettaglio, nonnetti. Ma che non per è? Sentire qualcosa, bisogna starci dentro. Starci dentro? Ma come stai parlando? Dovreste averli 18 anni. Non ne avete 18. No. Ne avete 78. Come 78? Ah, ma allora parli del vecchio. Parlo forte, William Barrow. C'è sempre un vecchio scemo che vende l'anima per una scopata. Ma basta, Drago! Il parolacciometro! È la quarta parolaccia! Ho già speso 2 euro, cazzo! Eh no, adesso 2 e mezzo. Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di... Sì, sì, insomma, non è più... Sì. Come... sì. Allora, su internet ho trovato un forum inglese in cui una donna poneva una domanda interessante, perlomeno per noi, Cap. E cioè, quali comportamenti infantili vi danno più fastidio in un adulto? La domanda giusta per noi qui a Chiedo Asilo. Allora, bravo, Drago. Bene, dai, le risposte sono le più varie e tutte hanno senso, tutte individuano una base puerile in comportamenti che però noi siamo abituatissimi ormai a considerare comportamenti da adulti. Ad esempio, c'è chi trova insopportabili quelli che non sanno perdere quando giocano, a carte o anche, non so, le partite di calcio dei figli, quei genitori che se la prendono con l'arbitro, si menano, sì, insegnano vabbè, ma i figli. Calcio a parte è più da adulti essere contenti di perdere, cioè da adulti uno è contento di essere un loser, adulti vuol dire perdenti. Ma no, cerca te. Di capire il senso della questione, non fare ricerca. Il molesto come no, al solito. Molesto, sei tu che non spieghi bene, Drago. Vabbè, facciamo un altro esempio così non fare finta di non capire. Allora, ci sono quelli che dicono un comportamento infantile, gli adulti che vanno in piscina e cominciano a spruzzare l'acqua, buttarsi dal trampolino, fare la bomba, tutti. Ma scusa, cosa ci vai a fare forte. In piscina se no? Se non puoi fare la bomba. Ma la bomba è fondamentale, Drago. Ma chi è che poi fa sti forum? Sono le sciure che vanno in piscina alle 10 di mattina e quindi vogliono essere tranquille. Sono persone mature, gente della tua età, magari, anche più giovani. Io faccio la bomba. Allora dai, proviamo un altro esempio. C'è chi proprio non sopporta quelli che si fanno chiamare con soprannomi ridicoli. Io conoscevo uno che lo chiamavano tutti il merda. Ma capo. Vabbè, era così, però lui non lo sapeva, cioè lo sapeva, però con lui non si poteva dire. Faceva finta di non saperlo. Vabbè. Altro esempio, ci sono almeno 3 che dicono di trovare molto fastidiosi quelli che ti finiscono le frasi un attimo dopo. Non so se mi sono spiegato. No, no. Cioè, tu prova a dire qualcosa. Cosa? Qualunque cosa. La mela è sul tavolo. La mela è sul tavolo. Tavolo. Ma così, ma cos'è? Un mentecatto? Non mai visto? Ma come mentecatto? È come Gildo, l'amico che... immaginario del bambino Alberto. Quelli che ti finiscono le frasi, che fanno anche così con le labbra mentre che tu nervi, parli. Sono veramente quelli tremendi. Che fanno così, è vero. Vabbè. Allora, Capo, invece tu quali sono i comportamenti infantili che ti danno più fastidio in un adulto? Ma cos'è un'intervista? Non lo so. Sforzati anche ma tu. Ma non lo so, fare il fifone, quelli che fanno i fifoni. Ah, il fifone, Non so, quelli che fanno la spia, gli spioni. Fifoni, spioni. Poi non so... Non sopporto quelli che si danno le arie perché hanno la bici da cross. Ma scusa, Kappa. Cioè, stavo parlando di comportamenti infantili negli adulti. Vabbè, ci sono degli adulti con la bici da cross. Ma scusa, tu ti sembra il discorso di un bambino che parla agli altri bambini, la bici da cross. Vabbè, ma quelli fifoni, con la bici da cross io proprio non so te, ma io proprio non riesco a sopportarli. Ma perché? Ma perché se la tirano con la bici da cross, hai capito? Tanto poi in città cosa ci fai con la bici da cross? Ma sai che non so nemmeno come è fatta una bici da cross, non me lo ricordo. È diversa dalla mountain bike, cioè quelli che dicono la mountain bike, è diversa, mountain, la bici mountain. Da cross è diversa. Tito, dai, lo sapevo, la bici da cross. E basta con le divagazioni, la bici da cross. Mi hai fatto una domanda all'intervista, ti ho risposto. Vabbè, allora ti danno fastidio i fifoni, gli spioni e quelli con la bici da cross. Sì. Ok. Ok, cosa? Cosa devo dire io? Come faccio a continuare il mio pippolotto sull'infantilismo se il mio co-conduttore e co-autore deplora al di sopra di tutti i fifoni, gli spioni, Coco Pro e quelli con la bici da cross? Ma cosa c'è di strano? A te piacciono i fifoni? A te piacciono quelli che appena vedono un po' di neve subito io non guido? No, non guido. Scusa, quella non guido. Si dice, ti piacciono i fifoni? Ma quelli sono prudenti, non sono fifoni, dai. Vabbè, allora ti piacciono gli spioni, quelli che vanno subito a dire tutto alla maestra o alla mamma, quelli che non si fanno i cacchi propri, gli spioni. Che si chiamano cittadini dotati di senso civico, non spioni. Se vedono qualcosa che non va, lo segnalano alle autorità e fanno bene. Vabbè, allora dimmi che ti piacciono quelli con la bici da cross. Dai, dimmelo. Ma io non conosco nessuno con la bici da cross, nessun adulto almeno. Conosco adulti che hanno una bella casa, una bella macchina e così possono essere orgogliosi di queste cose. Però adulti che se la tirano perché hanno la bici da cross, proprio non ne conosco. Ma io ce l'ho la bici da cross, però non me la tiro. Fate Ternana. Ah, bello ti fate Ternana, invece bello. Torniamo domani. Bello. Sì, la Ternana maglia rossa e verde. Ma chi se ne frega, bello. L'ha mandato per mail, vedi, funziona. Dai, chiamate, scrivete, anzi, scrivete a chiedoasilo@radio24.it le vostre alternative a... Na na na na na na.